Insomma, Centocelle Aperte è uno spazio ormai occupato da più di 30 anni con una rioccupazione nel 2016. È uno spazio di ispirazione libertaria, noi ci teniamo molto a sottolinearlo perché qui la decisione politica è che non facciamo autoreddito, quindi invitiamo sempre tutte e tutti ad autogestirsi, nel senso che dopo magari aver mangiato, laviamo, invitiamo a lavare ognuno il proprio piatto, a contribuire a lavare i bicchieri, a tenersi il proprio bicchiere, proprio perché qui, insomma, noi ci sentiamo e sentiamo che tutte e tutti voi siete parte di questo spazio come noi. Qui ci sono vari laboratori, c'è una sala prove, una stampante 3D che riprende un po' le lotte che portiamo avanti, e uno spazio ovviamente, come ho detto prima, di ispirazione libertaria e che sposa varie lotte, antifascismo, antirazzismo, senza insomma dilungarmi, è uno spazio anche transfemminista, ci teniamo anche particolarmente, e per il resto nulla, abbiamo contribuito insomma durante il periodo pandemico alla lotta contro il Green Pass, perché crediamo nell'autodeterminazione. Questo spazio è stato ovviamente uno degli spazi in prima linea, soprattutto in quartiere, in questa lotta, perché crediamo nell'autodeterminazione, e anche se quel periodo è stato molto, molto duro e stigmatizzante, insomma, diciamo, abbiamo resistito. Quindi adesso lascio la parola a tutti gli altri. Elisabetta, che ci spiega un pochino la cornice, ci dà una cornice. Allora, ciao a tutte, ciao a tutti, grazie di essere qua, grazie al compagno e ai compagni dell'UDA perché hanno accettato di partecipare a questa iniziativa, grazie allo spazio sociale di Centocelle Aperte e grazie ai compagni di Bologna, Ravenna e Milano che stanno portando avanti in Italia, in giro, per paesi, per luoghi, per città diverse, la loro iniziativa che si chiama Smart City, Palestina e Smart City, tecnologie per la guerra ai popoli. È molto importante perché? È importante perché cerca di ricucire tutta una serie di tematiche e poi loro ce lo racconteranno. Per adesso posso dire che noi abbiamo trovato molta sintonia con quello che dicono e molta sintonia con quello che hanno detto in passato. Noi siamo l'Assemblea Romana contro il Green Pass e ci siamo costituiti nel periodo pandemico. Ci siamo costituiti perché ci siamo resi conto del particolare e drammatico, particolare e drammatiche modalità che il potere stava mettendo in campo nei confronti dei subalterni, nei confronti della gestione del sociale, ed erano le avvisaglie di un certo tipo di rapporto che poi si sta configurando e sta continuando anche adesso, un rapporto di subalternità, di obbedienza, di disponibilità assoluta, di rispondere ai diktat del potere senza fiatare, di accettare che le persone vengano divise in persone di serie A e di serie B a seconda della loro disponibilità o meno ai diktat del potere, e quindi questo tipo di configurazione non ce lo siamo mai dimenticato, non abbiamo mai cercato di sottovalutare, anzi abbiamo sempre cercato di capire come dal potere veniva portato avanti, e infatti abbiamo mantenuto il nome di Assemblea No Romana contro il Green Pass, anche se questo nome può portare, può magari indurre in equivoco per qualche motivo, invece equivoci non ce ne sono, è proprio una scelta di continuità di analisi. E in questo ci siamo anche trovati molto in sintonia con i compagni e le compagne che sono qui stasera e che portano l'iniziativa della Palestina Smart City anche qui da noi. Allora, che cos'è la Smart City? La Smart City è una città intelligente, così ce la presentano, perché ci dicono che le più moderne tecnologie vengono messe al servizio della nostra vita, compreso il 5G, e che questo ci faciliterà l'esistenza e quindi per noi è una grande buona cosa. Invece è un concetto che va ben oltre e ben più pericoloso. Si tratta infatti di un nuovo paradigma per la realtà urbana che poggia su miriadi di sensori che raccolgono 24 ore su 24 ingenti massi di dati, cioè tutto quello che facciamo, tutto quello che programmiamo, dove andiamo, ma anche quello che pensiamo e anche quello che sentiamo. Strade, incroci, palazzi, parcheggi, gran parte dell'arredo urbano parlano tra di loro in tempo reale grazie a quello che in gergo viene chiamato l'internet delle cose, Internet of Things. Praticamente intelligenza artificiale, 5G, droni e altre innovazioni tecnologiche sperimentate reciprocamente sia in ambito militare che in ambito civile. E la Smart City costituisce la sintesi di tutto questo. Alla Smart City si accompagna il concetto di città dei 15 minuti. La città dei 15 minuti non è altro che la messa in opera dei principi della Smart City. Praticamente si tratta di ambiti territoriali circoscritti che possono essere un quartiere, una realtà territoriale con determinate caratteristiche e che vengono chiamate città dei 15 minuti perché dovrebbero avere a disposizione dei cittadini tutti i servizi nell'arco di 15 minuti di percorrenza a piedi, in bicicletta o con gli autobus, e infatti la presentano come una grande positiva innovazione, una città a dimensione umana. Questo è invece un paradigma molto pericoloso perché si tratta di veri e propri ghetti urbani, nel senso che la città dei 15 minuti ha 4-5 uscite carrabili controllate, da cui potrai uscire soltanto a piedi con gli autobus o in bicicletta, oppure con la macchina elettrica se te la puoi permettere, e potrai andare soltanto in quella ASL, in quella scuola, in quel centro sportivo. Quindi è un ambito urbano ipercontrollato, ma non soltanto questo, è anche ipercondizionato. Allora, perché questo è importante? Perché dal concetto di Smart City, dal concetto di città di 15 minuti, vengono fuori tre importanti punti che dobbiamo tenere sempre presenti e che sono quelli che guidano questa scelta progettuale da parte del potere. Il primo è che non sono configurazioni destinate soltanto al controllo, cioè il controllo è uno degli aspetti più eclatanti, più importanti, perché praticamente noi veniamo monitorati, controllati, l'intelligenza artificiale, il riconoscimento facciale, il riconoscimento anche dei nostri modi di camminare, di vestire, di atteggiarsi, e quindi comporta anche tutta una serie di algoritmi che verificano in maniera predittiva e preventiva eventuali comportamenti difformi da normale. Però non è soltanto un problema di controllo. La Smart City e la città dei 15 minuti tendono a costituire un nuovo modo di pensare, un nuovo modo di agire, una società completamente diversa da quella in cui noi ci troviamo. E questo per un'estrazione del plus valore, quindi un'estrazione di valori economici, da tutti gli aspetti della nostra vita, cioè da una società lavorista, da una società in cui i rapporti erano di lavoro, si passa a una società in cui viene messa a frutto il monitoraggio di tutti gli aspetti della nostra vita. Questo è importantissimo perché noi possiamo pensare a una società del controllo, invece no, è una società di uno sfruttamento molto più profondo. Un altro aspetto che permette poi questo tipo di sfruttamento, che dobbiamo tenere sempre presente, è il cambiamento che appunto è stato eclatante durante il periodo pandemico di rapporto fra potere e subalterni. Allora, prima di tutto i subalterni qua da noi dobbiamo tenere presente che sono una, non sono più il proletariato classico, ma sono un arco che va dagli immigrati fino alla piccola e media borghesia che è stata proletarizzata, quindi un arco di persone e di cittadini che subiscono le vessazioni del potere molto ampio. Comunque, il rapporto è completamente cambiato. Non c'è più modo di mettere in campo nessun tipo di contrattazione. Il rapporto è solo di premialità, stigma o punizione. Tu fai quello che io ti chiedo, se non lo fai sei stigmatizzato dalla società intera, se continui a non farlo sei punito. Questo si rispecchia poi in varie cose che sono state messe in campo, per esempio la patente del concittadino, il fatto che le case popolari vengono date a punteggio, il fatto che tutti i documenti devono essere digitalizzati, il fatto che la stessa moneta andrà a sparire, dovrà essere digitalizzata. Quindi tutti i rapporti del cittadino con la pubblica amministrazione sono informati a questo nuovo paradigma, a questo nuovo tipo di rapporto che non è più di contrattazione per rapporti di forza, ma è di servitù, è un rapporto servile tra potere e subalterni. Questo tipo di impostazione poi si accompagna alla militarizzazione del sociale, a moduli di guerra che ci vengono imposti quotidianamente e a un tipo di atteggiamento che non è soltanto del nostro mondo, ma vale sul fronte interno come vale sul fronte interno. È un'impostazione. Tanto è vero che se per caso non riuscite a immaginare come potrà essere la nostra città nel futuro, basta che guardiate a quello che sta facendo Israele con la Palestina, perché quello che sta facendo Israele con la Palestina è la punta di diamante di un atteggiamento che ha scelto questo tipo di borghesia nella fase avanzata, chiamiamola del tecnocapitale, chiamiamola di tecnocrazia feudale, come la volete chiamare, e questo vale appunto sia sul fronte interno sia con i colonizzati. Nel rapporto coloniale, i colonizzati devono solo subire, se fare quello che il potere gli chiede, se non lo fanno devono essere eliminati fisicamente. È quello che sta succedendo in Palestina, perché la Palestina sta resistendo, la Palestina si sta ponendo in maniera antagonista, in maniera attiva, e non intende cedere. E questo tipo di rapporto per questo tipo di potere non è accettabile. Tant'è vero che si era lasciato sfuggire Merz tempo fa, che il cancelliere tedesco, che Israele sta facendo il lavoro sporco per noi. Sta facendo il lavoro sporco per noi, non perché noi vogliamo che distrugge come l'Occidente sia distrutta la Palestina, ma perché il rapporto di chi non risponde ai diktat del potere è questo, e questo bisogna che lo impariamo anche noi. Quindi per noi lottare per la Palestina significa lottare anche per noi. Oltretutto Israele è la punta di diamante di tutta la ricerca tecnologica, nanotecnologie, 5G, droni, ricerca militare, ricerca civile che si intersecano e vengono sperimentate in bilicorpore sui palestinesi e poi vengono rimbalzate tra Occidente e Israele. Israele è tutto questo, è la punta di diamante di un atteggiamento che comporta soltanto l'arroganza del potere e nessun tipo di mediazione con i subalterni o i colonizzati, e quindi se abbiamo ancora qualche remora, se abbiamo, pensiamo che questo non sia possibile, guardiamo al fatto che i nostri occidentali, i nostri governi occidentali, eccetera, non muovono un dito se non con le belle parole. Le belle parole servono a poco, servono a farsi belli, ma di fatto non spostano nulla nei rapporti di potere. Quindi ricordiamoci questo, che e poi un'altra cosa ancora, l'unica cosa, l'unico modo che abbiamo, secondo il potere, per rapportarci con lui è il collaborazionismo. Questo è un aspetto molto importante che dobbiamo tenere presente quando poi più avanti nel corso di questa iniziativa parleremo di quello che succede a Roma, per esempio. L'aspetto collaborazionista è quello che deciderà le sorti delle nostre città, del nostro futuro. Dobbiamo stare molto attenti. Non c'è più tempo per nascondere la testa sotto la sabbia e neanche per dire io speriamo che me la cavo. Grazie Edi, chiarissimo intervento. Adesso passerei la parola alle antifasciste contro il PAS e poi procediamo con la proiezione. Non so chi di voi deve, come siete d'accordo, Fabrizio delle antifasciste contro il PAS di Bologna, e poi proietteremo qui il video. Grazie. Grazie a te. Buonasera, salve, siamo Assemblea Antifascista di Bologna, siamo in tre, io sono Fabrizio, vice Massimo, vice Cristina. Devo dire che dopo il tuo intervento, insomma, che è molto, molto, molto ficcante, mi sento di aggiungere poco. Quello che posso aggiungere è questo: il motivo per cui abbiamo scelto questa modalità, quindi di fare un'assemblea nella quale mostriamo dei documentari che sono stati girati da Al Jazeera e che non sono stati nemmeno sottotitolati in italiano. Noi abbiamo deciso di doppiarli. I documentari che voi vedrete adesso ci fanno vedere chiaramente due modelli di smart city. Una è Hebron, l'altra è Gerusalemme Est. Sono smart city conclamate, quindi le chiamano così, se ne vantano. Sono smart city super avanzate, quindi a nostro modesto parere, guardando le smart city più avanzate, possiamo trarre in poco tempo che cosa vogliono fare con le smart city. È molto importante per noi chiarire che la situazione palestinese naturalmente non è minimamente paragonabile a quella italiana, ma la nostra teoria appunto è che nel momento in cui tu inizi un processo vuoi arrivare a determinate conclusioni. Le conclusioni le vediamo in Palestina. Gli attori sono gli stessi, i sistemi di ricerca sono gli stessi. Una cosa per esempio importante da chiarire proprio riguardo il rapporto con Israele, con il mondo occidentale, è la presenza di Israele nelle università italiane. Perché noi sappiamo da un sistema di sviluppo relativamente recente, stiamo parlando del 1998 circa, questo sistema di sviluppo chiamato a tripla elica, che prevede la collaborazione tra le tre istituzioni principali del nostro, chiamiamolo, mondo, che sono l'università, il governo e l'industria, e la trazione di questo sistema di sviluppo si alterna, a volte non è il governo a decidere le cose, a volte è l'industria, ma altre volte è l'università stessa attraverso la ricerca. Quindi quello che noi vediamo in Palestina in questi documentari è il risultato di una serie di convergenze e di forze che trovano un apice lì, perché quello è un laboratorio di sperimentazione in cui la vita umana è stata completamente adibita alla ricerca, se vogliamo scientifica, più propriamente è un tecnoregime, quindi noi dobbiamo imparare da questo come procederanno in futuro. Per chiudere la cosa, sempre ricollegandomi a quello che diceva Betta, posso chiamarti così, Betta, sulla questione dell'estrazione dei dati, tenete presente che fino al 2023, quindi a 2 anni fa, i data center possedevano 5200 gigabyte di dati su ciascuno di noi. stiamo parlando di 40 miliardi di miliardi di dati. Fino al 2023 saranno sicuramente aumentati. Questo perché nella loro idea di smart city, che serve per l'ambiente, e dopo mi farà piacere fare un intervento anche sull'ambiente, dato che uno dei cavalli di Troia di questa smart city è il green, quindi è un'operazione ambientalista, e la sicurezza, e vedremo in Palestina quanto sono sicuri gli abitanti delle città di una smart city, e la qualità della vita, inutile dire che continueremo a imparare qual è la qualità della vita che intendono precettare per noi. Grazie mille e dopo, insomma, spero che ci sarà un lungo dibattito, insomma un dibattito molto acceso, noi ci tifiamo proprio per questo tipo di modalità. Grazie mille. Grazie.